Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao tesoro, come sta la ragazza più favolosa di Malibu? Esausta, mi toccherà fare la pedicura a Teresa se non le preparo dei cupcake in 4 e 48. Non preoccuparti, ci sono qua io. Non trovate che sia il fidanzato migliore del mondo? È così, gentiluomo. Grazie, Ken. Non mi va di perdere questa scommessa. L'ultima volta è stato terribile. Vai così, Barbie. Levica quei talloni, falli brillare, brillare! Ok, possono bastare. Può esistere una donna al mondo più odiosa di Barbie? No, in assoluto no, in assoluto no. Eppure è il modello femminile che hanno avuto in mano, penso, la maggior parte delle donne delle ultime 3-4 generazioni, visto che nasce nel 1959. Ma anche uomini. Io ho avuto nelle mani molte Barbie e sono state oggetto delle mie prime curiosità di capire cosa avessero le donne sotto le mutande. E per anni ho mantenuto forte il concetto che non avessero nulla, fossero completamente piallate. Ciò mi rassicurò molto, fino a che non feci l'atroce scoperta. Perché vi parlo di Barbie oggi? Perché Barbie sarà al centro del nostro immaginario da qui al 17 febbraio. Il 17 febbraio farò uno di quegli eventi di cui raramente mi sono fatto partecipe e istigatore, e sarà probabilmente il più forte, il migliore, forse per me anche l'ultimo. Vorrò convocare almeno 150 ascoltatrici di questo programma a Milano, al MUDEC di Milano, che è un bellissimo e nuovo museo dove vengono esposte arti contemporanee. È in corso una mostra su Barbie, di cui parlerò nel corso della trasmissione. Ma io il giorno 17 febbraio vorrei far venire lì almeno 150 delle persone che mi ascoltano con una Barbie in mano, e vorrei ragionare assieme a loro su quanto quella Barbie che tengono in mano ha rappresentato una profezia o una negazione di quello che poi è avvenuto nel corso della loro vita. Io già ho lanciato questa idea e c'è un profilo Facebook, La Notte delle Barbie Viventi, perché è una sorta di rievocazione, di risumazione. Voglio che le donne che hanno giocato da bambine con le Barbie, che magari l'hanno messa in degli scatoloni, dei bauli, buttate via nascoste perché fanno parte di orpelli di fanciullezza ormai dimenticata. Il menarca seppellisce la Barbie in uno scatolone, poi fa parte delle cose da bambina. Però qualcosa ci avrete lasciato in quella Barbie. Ecco, tiratela fuori come già hanno fatto molte ascoltatrici che orgogliosamente hanno mostrato il modello irraggiungibile della loro fanciullezza, quando pensano che essere donna significava avere quelle proporzioni, e questo ha causato per molte anche notevoli danni, o pensavano che probabilmente quello era il massimo, era il punto più alto della femminilità raggiungibile. Poi il tempo in realtà ha segnato le loro figure e il loro immaginario in maniera diversa. Ma Barbie rimane un modello. Non ci facciamo condizionare dai modelli, ma ci piace la nostalgia dei modelli che abbiamo avuto da bambini. Potete mandare una vostra foto di voi barbizzate, segnate di voi con una Barbie in mano. Andatela a cercare, scovatele, rubatele alle figlie, rubatele alle bancarelle, rubatele ai negozi di giocattoli. Voglio vedere delle donne che mi ascoltano con una Barbie in mano. E voglio da quello cominciare a fare il racconto di quanto è stata diversa la loro vita rispetto a quello che pensavano quando giocavano con Barbie, con Ken. Poi vogliamo parlare di Ken come modello maschile. Se andrete nel profilo Facebook, abbiamo creato La Notte delle Barbie Viventi, vedrete me kennizzato. Mi sono ridicolamente vestito da Ken, con dei pantaloncini color blu cobalto oltremare, con quel parruccone che aveva Ken, fantastico, meraviglioso, probabilmente adatto all'epoca in cui fu pensato. E mi sento kennizzato, ridicolo, ma quindi sollevato, leggerissimo. Mi sento al di fuori del bene e del male. Mi sento non più sottoposto a nessun giudizio. Mi sento di rispondere con La Notte delle Barbie Viventi all'imam di Colonia, che ha detto che in fondo la colpa delle molestie e degli stupri avvenuti la notte di Capodanno è perché le vostre donne sono troppo profumate. Le nostre donne sono molto profumate. Le nostre donne sono anche profumiere certe volte, si può saperlo, ma preferiamo donne profumate a donne puzzolenti. Ma non poverine perché trascuno la loro igiene, perché costrette a stare dentro dei sacchi di acrilico che le copra dalla testa ai piedi, perché gli uomini come lei, imam di Colonia, siano tranquillizzati che quelle donne sono proprio come Barbie, completamente cancellate laddove inizia il mistero della donna e che l'uomo si ferma sulla porta tremebondo, come esattamente fate voi che andate in giro a palpeggiare le donne perché profumano troppo. A tra poco, 800 24 00 24. Volete partecipare alla notte delle Barbie viventi? Mandate la vostra foto, aspetto. Melog, cronache meridiane. Beh, io non mi vergogno a dire che a me Barbie piaceva tantissimo e viceversa odiavo i bambolotti cicciottelli che pretendevano di propinarmi pretendendo che fosse, che facessi, che giocassi a fare la mammina. Io ricordo che quando ero bambino più che altro avevo il mio Big Jim e lo utilizzavo per dare un sacco di botte e di mazzate a Ken. Per noi persone, ragazzi che sono cresciuti in un paese molto povero, Barbie rappresenta un sogno che non è mai stato realizzato e non è mai stato toccato nemmeno nelle vostre mani. Come fare a partecipare alla notte delle Barbie viventi? Se andate adesso sul sito di Radio 24, www.radio24.it, già c'è un box che vi manderà una pagina dove ci sono le prime istruzioni. Occorre farsi una foto, cosa semplicissima, avete uno smartphone in mano, vi fate una foto purché abbiate una Barbie in mano. Non fate come hanno già fatto molte ascoltatrici nei giorni precedenti, facendo dei fotomontaggi, prendendo dalla rete una foto di Barbie, appiccicandoci malamente a loro faccia. No, voglio vedervi con una Barbie completamente in plastica e acrilico fra le vostre mani. Avrete le Barbie la vostra fanciullezza? Ma forse sì, forse no, andatele a scovare. Cercate nello scatolone, l'avete seppellito, il sogno illusorio della vostra fanciullezza. Questa foto la mandate a melog@radio24.it. Le vedo io qui a tempo reale, le voglio vedere, me ne sono arrivate molte questa mattina. Un importantissimo ufficio stampa di un importantissimo canale televisivo ha mandato la sua foto mentre lei canta in playback Barbie Girl con il fascio delle sue Barbie fra le braccia, e la vedo completamente scatenata. È una donna liberata, è una donna profumata, di quelle che possono suscitare istinti peccaminosi negli uomini. Viva Dio, per fortuna qualcuno ancora eccita i nostri istinti. Siamo uomini culturalmente controllati, i nostri istinti poi vengono sublimati in una sorta di ammirazione, in un peana perenne che noi celebriamo nei confronti delle nostre donne. Quando avrete mandato la vostra fotina con Barbie in mano, dovete soltanto accendere una candela davanti all'immagine della vostra Barbie Madonnina e dire: speriamo che ci scelga. Io vi sceglierò assieme a Fabrizio Intonti, insieme al nostro staff, e sceglierò di voi 150 persone, guarda, sono tante, che potranno venire la notte del 17 al MUDEC di Milano. L'arrivo è alle 19.45, in cui vi accrediterò. Alle 20.30 inizierà una intrattenimento live che faremo, una specie di teatrino. Sarete voi con le vostre barbe, ci sarò io e parleremo di cosa, non vi preoccupate, già abbiamo fatto in passato, sarà una serata fantastica, indimenticabile. Poi visiterete liberamente la mostra di Barbie the Icon, che è esposta al MUDEC. Non se magna, ve lo dico subito, venite già mangiate perché il buffet al momento perlomeno non sembra previsto, ma che ci importa, poi andremo tutti a sbevazzare e guarderemo l'alba, io, voi e le vostre Barbie, con quello sguardo bello fisso. Salve, io sono Paola di Genova, ho 43 anni. La Barbie l'ho avuta tardi, molto tardi, ero già grandina. Per me ha rappresentato qualcosa, un mondo che a cui non potevo accedere, perché essendo molto povera me l'ha già regalato un caro amico di mio padre quando ormai avevo 12 anni, quindi troppo grande per utilizzare una bambolina così. Ecco, questo è quello che ha rappresentato Barbie per me. 800 24 00 24, sono qui in diretta se ci fosse qualche equivoco e vorrei che qualcuna chiamasse e cominciasse a raccontarmi, ad anticipare appunto vocalmente, e potrà partecipare comunque alla grandissima notte delle Barbie viventi, quello che è stato il suo rapporto con Barbie. Barbie può essere vista per similitudine o per contrasto. Io ho avuto Barbie e ho sognato tutta la vita di essere come Barbie. Siccome crescendo non ero come Barbie, quindi ho cominciato ad avere dei problemi. Ho cominciato a abbandonare Barbie come modello. Oppure Io ho avuto Barbie come modello negativo, volevo essere esattamente il contrario di quello che fosse Barbie. Non volevo dei ragazzi sorridenti, sempre vestiti con colori sgargianti, con sotto l'ombelico una bella pezzo di plastica piallata. Oppure Ken cosa aveva? Ken aveva delle mutande di plastica sovrapposte, inamovibili in alcune versioni, quindi aveva una sorta di cintura di castità che celava il suo segreto. Oppure semplicemente non ho mai giocato con Barbie, a me Barbie non piaceva. Ma questa è la lettura più politicamente corretta, lo capisco, ma anche la più ipocrita, come quelli che dicono io non guardo mai la televisione, non vado a vedere i cinepanettoni, leggo soltanto dei bei libri, ascolto soltanto musica classica, in televisione, la televisione a casa mia non c'è naturalmente. Ecco, Barbie invece è un momento formativo importante della vita di una donna, perlomeno dal 1959 a oggi è impossibile che una donna non abbia mai visto, toccato una volta, anche a casa delle amichette, se la sua era una famiglia che impediva l'entrata delle Barbie. 800 24 00 24, parlatemi delle Barbie della vostra vita. Serena, buongiorno. No, ciao Gianluca. Io di Barbie ne ho avute tante, 18 addirittura. Riesci a ricordare cos'erano? Barbie con la coda da pesce, Barbie arrampicatrice, Barbie sì. Cos'erano, diciamo? Le Barbie erano tante, nel senso che ognuno aveva un ruolo, ognuno aveva poi il suo compito che cambiava, ma la prima in assoluto che ho avuta, che è quella che mi è rimasta proprio nel cuore, era un'edizione limitata ed era Barbie ballerina, che aveva una coroncina infilzata nella testa, ma con un chiodo essere... proprio. E non poteva essere tolta, quindi da una parte era un ornamento, però dall'altra era quasi una sorta di, quasi una menomazione, perché cioè una corona di spine, quasi un cilicio aveva. Era proprio un piccolo diadema, però infilzato nella testa, quindi non si toglieva mai. Se la mettevi a dormire, se la facevo il bagno, quella era sempre comunque presente, quindi era una cosa che la rendeva unica, perché le altre invece non avevano questa caratteristica. E poi aveva i capelli corti, cioè aveva dei boccoli fino alle spalle, era proprio un'edizione limitata, perché poi io l'ho vista soltanto ad altre due o tre mie amiche, ma insomma non era molto diffusa. E la cosa che poi l'aveva resa ancora più unica è che io mi divertivo magari a truccarla, a giocarci, e li avevo con l'acetone, quello per togliere lo smalto delle unghie, gli avevo cancellato un occhio, quindi questa Barbie era con la corona infilzata, senza un occhio, quindi era diventata una specie di Barbie saggia, era la prima Barbie zombie, però con un occhio che gli era quindi una Barbie però... ciecata hai avuto sempre. Sì, era Barbie ciecata, e tant'è che a un certo punto però decisi di sottoporla a un intervento chirurgico, quindi con l'assistenza di tutte le altre consorelle, con la Biro, tu immagina, 8 anni, le ridisegnai quest'occhio facendo una specie di panda, praticamente bluetto, tutto viola sul viso, che però a me piaceva tantissimo. Senti, e le altre 17 Barbie avevano meno mazzi di questo tipo o sono rimaste integre? Guarda, a parte i capelli che venivano sistematicamente stagliuzzati, quindi c'era quella che aveva capelli scalettati o magari, che ne so, con una striscia colorata, però no, altre menomazioni no, erano molto più classiche. Questa proprio per me è quella presente in tutte le foto da bambina, proprio è rimasta nel cuore perché era quella veramente più particolare. Ecco, le hai conservate le tue Barbie? Voglio capire anche l'esito delle Barbie, che tutte le ricordano, poi a un certo punto scompaiono da casa. Sì. Guarda, a un certo punto io mi ricordo che insomma intorno agli 11 anni ormai non ci giocavo più, erano tutte ammucchiate dentro una valigetta, questa valigetta è sparita, però i miei genitori mi assicurano che c'è, quindi io adesso la devo cercare e a questo punto fotografarmi in mezzo a queste 18 Barbie, io devo cercarla in cantina perché sicuramente, cioè, non me l'avrebbero mai buttata perché ero troppo, troppo legata, veramente è stato proprio, sono state compagne di storie, di invenzioni, ma da sempre insomma. Allora, l'esempio di Serena, che ringrazio, è emblematico di quello che occorre fare. Questa proprio è la case history fondamentale. Bisogna andare a cercare innanzitutto il sepolcro delle Barbie seppellite e bisogna resumare le vostre Barbie. Serena chiederà ai genitori, molti di voi chiederanno ai loro genitori, altri chiederanno ad altri familiari, sorelle più piccole, dov'è nascosto innanzitutto il sepolcro delle Barbie. E poi per rievocarle, portarle la notte delle Barbie viventi. Fatevi subito la foto con Barbie, mandatela subito a melog@radio24.it. Intonte le sta verificando a tempo reale, man mano che arrivano mi vengono fatte vedere le foto, potrò descriverle. Le migliori, già da questa mattina potremmo dare delle assegnazioni, Già consiglio Serena dei nostri se riuscirà a trovare le sue 18 Barbie, ci manderà la foto, soprattutto la Barbie ballerina con la corona di spine, con quel cilicio in testa e con l'occhio di Velto ridisegnato, che è un'orribile raffigurazione di Barbie. Cosa avrà fatto Serena da grande? Quale mestiere avrà fatto? Che si è tanto impegnata nella ricostruzione dell'occhio di Barbie, cosa sarà diventata? Ingegnere, medico, manovale, maniscalco, non si sa. Questo mi interesserà capire. Claudia, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io avevo una quarantina di Barbie. 40 Barbie, eri ricca? Sì, beh, una ogni Natale, diciamo. Beh, no, forse... Beh, okay, per 40 anni ti hanno regalato le Barbie? No. No, può essere, mica c'è niente di male. No, volevo dire due o tre, anche di più, Natale, compleanno, c'era sempre la Barbie. Ma come le gestivi 40 Barbie? Perché, diciamo, è un battaglione. Beh, avevo un armadio a muro e io le mettevo lì, era un po' una bacheca dove le mettevo. Solo Barbie o anche dei Ken avevi? Ma giusto uno per così. Per... Vabbè, è come il coniglio nella conigliera, scusami, un Ken con 40 Barbie. Sì, sì, 40 Barbie, poi avevo anche il camper, avevo la casa e il cavallo e di Barbie. Vabbè, il cavallo suppliva alle mancanze di Ken. Alle mancanze, giustamente, sì. Ma cosa, ecco, qual era il gioco tipico con 40 Barbie che si può fare? Ma il gioco tipico inizialmente era molto innocente quando ero piccola. Si giocava, non so, ad andare appunto in vacanza col camper, andare a cavallo in giardino, ecco. E poi quando sono diventata un po' più grandicella, allora ho coinvolto anche il Ken. Diciamo la verità, così sfatiamo subito un non detto enorme. Barbie e Ken servivano alle bambine per cominciare a industriarsi e a cercare di capire cosa succedesse fra babbo e mamma perché giusto. Nascessero i bambini. Sì, sì. E lo facevate anche voi, sì? Certo, infatti con le amiche in età preadolescenziale si architettavano queste scenette così un po' spinte, ecco. Con Barbie e Ken, le tante Barbie e il solo Ken che doveva... Era una bella fatica comunque, 41 è un bel rapporto. Sì, sì, sì. Cioè, sì, nemmeno sì. Una gangbang, cioè una cosa... più o meno. Comunque volevo dire che io mi spostavo spesso con una o due Barbie quando andavo... Te ne portavi un paio sempre con le te? Le portavo sempre con me, ecco. Poi un bel giorno andai all'oratorio gestito da delle suore. E queste suore mi intimarono insomma di lasciare a casa la Barbie perché era un oggetto sconveniente e mi chiesero di portare una bambola normale, piatta, un bambolotto. Ma più piatta di Barbie? Ah, senza tette? Senza tette, sì sì. Ma che, mi scusa, che taglia aveva Barbie? La zero, perché era quasi piatta? No, sì. ma no, Barbie aveva delle tette bellissime. Una terza? Una terza, sì. Vabbè, tante tette sotto niente, cioè... davano la legge di gravità, rimanevano su, così, ecco. Ti hanno detto la Barbie è indecente? La Barbie no, è indecente e bisogna portare il bambolotto, il cicciobello, che io non avevo, perché... Però vedi come nascono poi nell'ambito parrocchiale queste cose qui. Non portare la bambola porta il bambino, cioè è imbarazzante come sì. Cosa. Sì, e quindi io sono rimasta molto, molto delusa e traumatizzata. Alla fine è la stessa cosa che l'imam di Colonia. Barbie induce in tentazione, quindi non giusto, la porta. Giusto, e però c'aveva ragione. E voi le usavate per una fanciullesca simulazione di accoppiamento con Ken. Certo, era questo il bello di Barbie. La cosa non regalavi, una bambolina, un bambolotto prete col bambolotto bambino. Cioè, mi sembra imbarazzante. Comunque, guarda, io mi aspetto che tu faccia subito la foto con le tue... 40 Barbie, se le hai ancora, o quello che hai, ti rimane 40 Barbie, mandela subito a melg@radio24.it e sarai tra le fortunate, già te lo posso dire, che parteciperanno all'indimenticabile notte delle Barbie viventi. A tra poco. Melg, cronache meridiane. Dove abito io? Alla discoteca, una dune buggy e una stanza intera adibita a guardaroba. Ma tu hai proprio tutto! Tutto meno qualcuno con cui condividerlo. Ti vedrò ancora? Io ti vedrò stanotte, nei miei sogni. No! Ken, vogliamo muoverci? Barbie, vieni con me, nella mia casa da sola. Oddio, che Ken ha proprio tutto, quello che può far felice Barbie... Ho qualche dubbio, anche se ormai le trasposizioni, gli inserti, la chirurgia plastica applicata alle bambolette fa dei miracoli. Se andate in rete trovate anche Ken iperdotato, che però non fa parte naturalmente dei modelli in vendita regolarmente della Mattel. Ricordo che stiamo lanciando la notte delle Barbie viventi, che avverrà il 17 febbraio, non me l'hanno scritto, 17 febbraio alle 19.45 al MUDEC, Museo delle Culture, dove già c'è una mostra, Barbie the Icon, che presenta comunque questo oggetto contemporaneo che Barbie, che ha una storia però perché ha parecchi anni, è del 59, quindi ha la sua bella età, che dovrà in qualche maniera ispirare le nostre ascoltatrici a mandare una loro foto barbizzata. Anche gli uomini kennizzati sono ammessi, perché non posso fare discriminazioni di genere, e mandandola a melg@radio24.it, ma se andate nel sito di Radio 24 già vedete la pagina dedicata, queste foto che devono rappresentare l'ascoltatrice o l'ascoltatore con in mano il pupazzo in plastica realmente, non fate fotomontaggi, è inutile, saranno poi chiamati nel numero di 150, sono tanti 150, la notte del 17 febbraio, insieme staremo al MUDEC, dove avverrà una notte indimenticabile, composta da Barbie in plastica e polimero, Barbie in carne ed ossa, anche un po' di polimero potrebbe anche starci, non ce ne importa nulla, e il sottoscritto e lo staff di Radio 24 vi intratterrà per una notte. Osserverete e visiterete anche la mostra. Ripeto, purtroppo, portatevi un panino da casa perché non si mangia. Marinella, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io non ho mai avuto la Barbie Bion, volevo dire questo, e mi dispiace che mia madre non lo possa sentire perché in questo momento... Allora Marinella, ferma un attimo, la faccio parlare con tutta calma. Lei appartiene a una categoria umana che sono le private da Barbie. Esatto. Come io appartengo alla categoria umana dei maschietti privati delle armi giocattolo, perché in casa non dovevano entrare, che hanno sognato tutta la vita e giocavano a fare revolverate con le mollette da panni, e con le penne birro, con le bottiglie, con qualunque cosa potesse sembrare un'arma. Lei come ha supplito a questa drastica, profonda, crudelissima mancanza di Barbie che le veniva imposta dai suoi genitori? No, ma allora, a me l'hanno regalata la Barbie, però mi hanno regalato non la Barbie bionda con gli occhi azzurri, con la frangetta, ma hanno regalato siccome la teoria educativa della mamma era che sì, però insomma bisogna stimolare l'originalità e tutte queste cose, e a me hanno regalato una Barbie scozzese con i capelli rossi lunghi e gli occhi verdi, con un kilt... che io mi vergognavo moltissimo a portare. Cioè era troppo zoccola la Barbie tradizionale, ha regalato una bambola, poteva sembrare uno scozzese gay. No, per la mia mamma non c'era questa componente moralistica, era più che altro l'idea che tutti ce l'avevano l'altra, l'altra era banale perché ce l'avevano tutti, ti regalo una cosa più bella l'originalità della Barbie scozzese. Che non ha potuto mai giocarci con le amiche perché la prendevano in giro. Tutti me la guardavano con grande sufficienza, io l'ho odiata moltissimo, poi verso i 9-10 anni devo averla anche buttata via. Quindi lei non possiede più la Barbie scozzese? Assolutamente no, me ne sono liberata, sono un primo atto. E quindi ovviamente. Lei non è interessata a partecipare alla notte delle Barbie viventi? No. Diciamo il paradigma è sempre il solito: vi vedrò in televisione, su internet, e penserò porca miseria, nemmeno io non posso nemmeno partecipare a 43 anni alla notte delle Barbie perché non ho mai avuto la mia Barbie. Allora lancio un appello alle madri ancora viventi e ancora in grado di gestire bambini. Mia madre vive però e lo sa, perché io glielo rimprovero. Signora madre di Marinella, lei ha creato un trauma irreversibile nella sua figlia. Non, sì. Permettendo di usare la bambola che usano tutti, non capisco che ce l'hanno tutti, che non può averla anche sua figlia. Qual è il problema? La faccia giocare, poteva farla giocare con la Barbie che tutti avevano. Marinella, anche con Ciccio Bello. Marinella, mi faccia un regalo. Guardi, oggi le Barbie costano 4 soldi, veramente le trovi tutte. Se ne compri una ci mandi la foto. Verrà da noi e avrà la sua riscossa. Sarà circondata da Barbie. Avrà finalmente possibilità di elaborare questo lutto e andrà in un museo delle culture che è il MUDEC, che sarà circondata da Barbie, e faremo la sua terapia di gruppo. La prego, trovi una Barbie, si faccia una foto, sarà dei nostri. Ma io sono contrario a questo perché mi toglierebbe il gusto di rimproverarlo a mia madre. No, ma le daremo, mostreremo le sue ferite lacrimose, piangenti e sanguinanti, e sarà, diciamo, per sua madre una sorta di senso di colpa, si trascinerà fino alla tomba. Sia tranquilla, sono bravo nel creare sensi di colpa alle donne, è la mia specialità. Quindi lei si faccia la foto, ce la mandi e si affidi assolutamente alla nostra malvagità. Silvia, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare la mia esperienza con la Barbie. L'ho avuta per la prima volta, avevo 8 anni, per la promozione mia mamma me l'aveva comprata ed era rigidissima, con le gambe rigidissime. E quelle che non si snodavano ancora. Non si snodavano perché era del 74. Era la Barbie figa di legno, detto internos. Esatto, esatto. Aveva un costumino giallino, trasparentino, abbastanza che si confondeva col colore della pelle della Barbie. E avevo anche pochi vestiti, i miei genitori non avevano tanti soldi a disposizione, quindi mi sono accontentata di avere giocare con una Barbie con dei vestitini recuperati. E poi a 11 anni ne ho avuta una che aveva dei capelli incredibili perché aveva i fili di ferro dentro e quindi potevi fare delle acconciature fantastiche. Le ho lavati e si sono arrugginiti i fili di ferro nei capelli della bambola. Però le ho ancora quelle Barbie, sono in solaio, non so dove. Ci riesce a fare la foto? Ci riesce a fare la foto? Devo andare a casa di mia mamma a cercare. È lontana sua madre? No, non è lontana da casa mia. Mi piacerebbe avere la foto con Barbie fili di ferro. Che sarebbe... Fili di ferro, tutti arrugginiti, fantastico. Ma è bellissima, Barbie arrugginita è bellissima. Sì, sì. Nella confezione c'era anche un aggeggio per fare i boccoli, i pettinini, per delle mollette per fare queste acconciature. Eh sì, c'era il filo di ferro, le girava come voleva, bellissima. E poi quella Barbie lì però è sparita. Forse era un'edizione limitata, magari ho anche una fortuna tra le mani. Dopo il quarto bambino morto di tetano, chiaramente l'avranno tolta dal mercato. Infatti. Va bene, aspettiamo la sua foto di Barbie fili di ferro, una rarità che appartiene a tempi arcaici. Elena. Sì, buongiorno. Un'altra traumatizzata da assenza di Barbie, vero? No, guarda, io amavo moltissimo le bambole, però la Barbie non ha mai avuto. Però avevo delle amiche che erano molto generose e mi lasciavano giocare con le loro Barbie, e la cosa in assoluta che mi piaceva moltissimo è di vestirla con tutti questi tantissimi vestiti che aveva. Ma perché non ce l'aveva lei la Barbie? Perché non gli regalavano una Barbie a casa? Ma forse perché ero l'ultima di 7 e poi non è che nuotavamo nel denaro. Vabbè, non è che... benissimo. Ma non era molto costosa, la base di Barbie era alla portata di tutti. Ma figurati che non chiedevo anche, perché non... Io mi divertivo con tante di quelle cose che poi proprio la Barbie comunque in assoluto, a parte di divertire nel vestirla, mi piaceva, insomma mi ero molto colpita nel immaginare queste tette. Le tette e di Barbie. Io con quello ho in mente, quando penso alla Barbie, di Barbie nuda con quelle due tette che proprio... Perché lei ha fatto i confronti poi una volta crescendo, cioè perché le mie non sono come quelle di Barbie? Infatti sono rimasta indietro da quel lato lì. Però guarda, non mi sento di mancare nulla, però sì, la Barbie veramente era quindi secondo lei creava un'attesa di delle tette marmore e integerrime nelle bambine, che poi magari quando crescevano non era esattamente così, quello poteva essere un problema? Non lo so, può darsi, per me non è stato, anzi sono ben proporzionato, non mi ha fatto nessun problema. L'ha fatto bene, a forza di guardarle sono venute belle anche. È molto interessante sentire tutte queste diversità di Barbie, eccetera, eccetera. Noi stiamo organizzando la notte delle Barbie viventi, quindi proprio per questo. Io spero che avrete una gran bella notte insieme. Venga anche lei, faccia una foto con una Barbie, è liberissima. Non ce l'ho. Vabbè, ma se la vado a comprare oggi... Ma di lei che sono io una Barbie, va bene? È a rischio, perché ci vuole la Barbie nella foto. Elisa, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo ringraziarla per la riflessione che mi ha fatto fare, perché non avevo mai pensato alla Barbie adesso a 33 anni. È ora che ci pensi. infatti, per rimuovere quello stress che mi ha creato in passato. E perché l'ha stressata? Vediamo di capire, Elisa. Perché, allora, intanto rappresentava un modello nel quale non mi sono mai identificata. Ma nessuno può diventare come Barbie, se no non cammina, perché Barbie messa in piedi cade, se fosse fatta di carne e ossa. Però quei capelli biondi, certe bambine avevano delle caratteristiche che si avvicinavano, io no, fondamentalmente. Poi, non so, tutte quelle cose rosa, i camper, e i vestitini, e tutte quelle cose. Era per sognare, anche noi sognavamo su supereroi, che non eravamo certo noi, con i nostri toracini flaccidi e le nostre gambettine scheletriche, però siamo cresciuti con Superman anche noi, è chiaro. Sì, probabilmente sì, era per sognare, però in realtà era uno stress, perché comunque almeno mi sembra di essere bombardata a pensarci adesso dalla pubblicità, insomma gli altri. Ma ne possiede ancora Elisa? Una Barbie la possiede ancora? Sì, mia mamma le ha conservate. Ci riesce a fare la foto? Mi dà un po' fastidio però. Guardi, forzi se stessa, è per il bene suo, ma il bene di tante altre donne che avranno la loro liberazione. La notte delle Barbie viventi è anche una nottata di liberazione, è un momento in cui le donne potranno venire finalmente con la loro Barbie in mano e dire: guarda, questa sono io e questa è Barbie, io almeno ho avuto una vita, sul mio corpo ci sono i segni di tanti uomini che sono passati, che non erano Ken con quell'affare piatto davanti. Almeno pigliatevi questa soddisfazione sulle Barbie che vi hanno condizionato. Aspetto la sua foto, Elisa, a melog@radio24.it. lei con una Barbie, faccia questo sforzo, ne sarà compensata e ci dirà grazie. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ciao Gianluca, buongiorno, sono Valeria di Napoli. Dunque, mi piace molto l'argomento di questa mattina. Devi sapere che io sono cresciuta circondata da almeno una cinquantina di Barbie, di tutti i colori, e con tutti i vestiti possibili, ma soprattutto nude. Perché dico questo? Perché la Barbie per me ha rappresentato la via d'accesso al sesso. Cioè io la guardavo e capivo ad un'età veramente piccola che sarei diventata così, per cui mi divertivo con i relativi maschietti delle Barbie a instaurare tra di loro questi contatti che sapevo che in qualche modo mi avrebbero riguardato. Comunque devo dire, certo, è singolare pensare che venga vista come via d'accesso al sesso una pupattola, rappresenta una femmina che non ha nessuna via aperta di accesso al sesso. Bambi è chiusa, è sigillata, è la donna perfetta tutto sommato per l'imam che dice le donne profumano troppo, è la donna già naturalmente infibulata dalla colata di plastica che la rende bella, probabilmente appetibile o perlomeno oniricamente rappresentabile come modello di femmina perfetta, ma proprio nel luogo in cui la femmina rappresenta la sua differenza, il fatto di essere qualcosa che apre le porte all'indicibile, in realtà Barbie non è niente, ha una porta chiusa, è sbarrata. 800240024, le storie che state raccontando di Barbie sono esemplificative, le migliori le metteremo sul sito di Radio 24, le potrete riascoltare tra poco. Mandate la vostra foto di voi barbizzata, vedete c'è molto da raccontare nel rapporto fra femmina del genere umano e femmina del genere plastiforme che è appunto Barbie, e mandate la vostra foto a melog@radio24.it. parteciperete alla grande notte delle Barbie viventi il 17 febbraio la sera al Museo delle Culture MUDEC, dove potrete entrare al 19:45 e rimarrete chiuse lì dentro fino a che non arriverà l'alba, ma no, uscirete un po' prima. Federica, buongiorno. Buongiorno, guardi, io ricordo più bello che ho delle Barbie, ci ho giocato fino a, penso a 12-13 anni, però erano gli accessori, le scarpe e le borse. Soprattutto gli stivali, mi ricordo degli stivali colore marroncino, morbidini, e poi quando ne perdevo uno diventavo matta. Ad oggi che sono grande, ho 42 anni, mi è rimasta questa passione delle scarpe. Le scarpe scompagnate. Le scarpe scompagnate che non si riuscivano a infilare perché sto piede tutto storto, era difficilissimo. Lo stivale penso era difficoltoso, che il piede era naturalmente storto. Era difficile lo stivale, però c'erano dei modelli in gomma, quindi più morbidi, che si infilavano, con un treccio davanti, e degli stivali invece rigidi, rossi. Ne possiede ancora di queste Barbie stivalate? Possiedo ancora una scatola da scarpe con dentro i vestitini. Ci manda la foto a melog@radio24. Ci riesco volentieri. Probabilmente, guardi, io sarei molto contento di averla poi, come tutte le ascoltatrici che hanno già chiamato, nella notte delle Barbie viventi. Donatella, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io le volevo raccontare la mia storia. Praticamente all'età di 10 anni, forse. Scusi, fermo un attimo. Una nota di servizio. Mi dice Fabrizio Intonti, che sta guardando le foto: non mandate la foto della Barbie, ci deve essere anche voi. La Barbie da sola è piena la rete di foto di Barbie. Voglio foto di Barbie in mano vostra. Voglio vedere la differenza. Voi siete cresciute, Barbie è rimasta quella dal 59. è la vostra riscossa nei confronti di un fantastico giocattolo che è stato impregnato del vostro immaginario di bambine. Voi siete cresciute e siete diventata altra cosa. Voglio vedere la differenza e voglio colmare il raccolto fra quello che voi sognavate allora e quello che siete oggi. Quindi la protagonista con Barbie in mano. La foto di Barbie non mi interessa, ce ne sono quante ne volete, sono esposte al MUDEC, ne vedrete a tonnellate di Barbie, ma voi dovete essere la protagonista assieme a Barbie. Prego, continui pure, Donatella. Buongiorno. Sì, la mia storia è questa, nel senso che quando ero piccola avevo uno zio che stava studiando psicologia e un giorno vuole fare un test, si vede da quello che stava studiando. Praticamente a me e mia sorella ci ha regalato Barbie sposa e Barbie ballerina, dicendo scegliete voi quello che preferite voi, sì, no, non te l'ha consegnata a te questa, a te quella. E io ho scelto Barbie sposa e mia sorella ha scelto Barbie ballerina. Che siete diventate da grandi poi? Io, la mia ispirazione era proprio quella di fare la sposa, sì, la mamma, moglie e tutto quanto. E che è diventata? E cosa è diventata? Mamma e moglie? Sì, sì. E sua sorella cosa fa? Mia sorella ha preferito la carriera. E dopo la carriera, dopo il lavoro, così adesso ha avuto un bambino. Però ha fatto la sua carriera lavorativa con tutti i suoi pro e contro. Non la ballerina, però. Non la ballerina, no. Dal punto di vista di carriera lavorativa, da questo vabbè, punto quindi di diciamo vostro, il test è un po' sommario. C'è qualcosa in alcuni test di radice junghiana, che c'è un gioco che si può comporre con i solo fai della ballerina o la sposa, dice praticamente vediamo se la grande vuole fare la mignotta o fa la mamma. Era molto molto palese. No. Però la sorella ha scelto l'indipendenza, lei ha scelto la sacra vocazione della madre. E vabbè, mi sembra giusto. Se ha le foto le faccia, però ce le mandi. Patrizia. Sì, buongiorno, io l'ascolto sempre. Allora, no, la mia è la storia parallela mia e di mia figlia. Allora, quando è uscita la Barbie io avevo 12 anni, 11 anni, per cui la mia mamma, che era molto severa, no, assolutamente i bambolotti, la Barbie era una cosa indecente, non si poteva prendere, non l'avevo mai avuta. Poi invece mia figlia, che adesso ha 25 anni, quando è stata l'età delle bambole, delle Barbie, così ha cominciato a riceverne da altre persone, poi anch'io mi sono un po' slanciata perché ho detto insomma bisogna superare questa cosa e allora gliele abbiamo regalate anche quelle proprio dei personaggi, non so, adesso non me li ricordo, come che avevano qualche accessorio di lavoro, non mi ricordo esattamente quali. E poi la cosa che volevo dire, no, che la secondo me piace molto cucire, per un suo compleanno che aveva penso 10 anni, gli ho fatto un guardaroba ulteriore, aveva già i vestiti, ma poi gli ho fatto un sacco di altre cose, quelle che secondo me mancavano, il costume da bagno fatto bene, così. E poi ero andata addirittura da un ombrellaio, faceva gli ombrelli, a farmi dare un pezzo di stoffa, quella degli ombrelli insomma impermeabile, nylon, scozzese, sì, così, per fargli l'impermeabile, che poi credo di non aver fatto, forse gli ho fatto la mantella. Quindi c'è anche un bricolage legato alle Barbie? Sì, e poi gli ho messo, mi ricordo, siccome tra l'altro era un periodo che avevo rotto un piede, quindi cucivo a macchina, con l'altro riuscivo a cucire a macchina, e per cucire infilavo il mignolo, perché non so, il giro manica talmente piccolo che col mignolo riuscivo a infilarlo dentro e poi con l'altra mano. E allora poi gli ho fatto questa scatola di acetato trasparente, così, con dentro tutto sto guardaroba, me la ricordo ancora. Ma la possiede ancora? Ma la possiede ancora? Sì, questo? Sì, c'ho tutto. Ho una cassa panca piena di Barbie. Aspettiamo la sua foto, naturalmente. Ma non so se riusciamo prima, perché volevo farla fare a mia figlia. No, allora, minorenni non ne possiamo mettere nelle foto. No, c'ha 25 anni. Ah, beh, allora sì. Allora, sì. Per la faccia sua intanto. Comunque, la faccia prima posta. 25 anni, mi facendo il professor Rocchetti, che può andare, quindi si faccia fare la foto o faccia la foto con sua figlia, ce la mandi a Melog @radio24.it. Va bene, se riesco a entrare nel numero porto anche il guardaroba che ho fatto. Guardi, dipende da me, quindi va bene, è giudizio va bene. Ma possiamo venire in due? Se fate due foto, sì. Ah, va bene, ok. Non ci sono legami. Però va fate bene. Subito la foto e mandatela, perché già ho... subito no, non in questo ho già 60, già 60 richieste. Sono fuori casa adesso. Vabbè, non adesso, da qui a domani, fa in tempo. No, lunedì. Nel pomeriggio la faccio 60. Nel pomeriggio faccia due foto con tutto il guardaroba, bene. Va bene. Molto bene. Okay. Patrizia, abbiamo parlato. Francesca. Pronto, buongiorno. Sì. Salve. No, niente, io volevo raccontare che quando ero piccola ho ricevuto nell'arco della mia vita in regalo da mia mamma e da mio papà due Barbie. E, generalmente loro mi regalavano sempre giocattoli invece didattici molto belli. Sì, quelli noiosissimi, giochi utili. No, vabbè, però mi piacevano, comunque sia. Però alla fine, non ricevendo le Barbie, mi piacevano comunque anche le Barbie. Certo. Comunque sì, ho applicato la mia creatività subito dopo Natale a questa Barbie, nel senso che avevo quegli spray per fare la neve finta sugli alberi di Natale. E dopo aver vestito di carta igienica la mia Barbie, l'ho tutta spruzzata di bianco per far finta di farla danzare sotto la neve. Deve essere Barbie pupazzo di neve o... No, volevo fare tipo una ninfa che danzava sotto la neve. E cosa è venuto fuori invece? Barbie carta igienica? Sì, sono sciolti tutti i capelli. Si è sciolta? Si è sfigurata. Eh sì, perché ovviamente c'era qualche reagente che faceva sciogliere. Quindi Barbie Zombie ha creato. Complimenti, Barbie Zombie, mi mandi la foto della sua Barbie zombizzata. Melog@radio24.it. Fabrizio Intonti e il grande Valerio Rocchetti saranno partecipi alla grande notte delle Barbie viventi. Vi aspettiamo presto, il 17, al Mudec.